Non lo visualizzo. Cosa ti fa sentire protetto e sicuro? Sentire protetto e sicuro è quando mi sento considerato e mi sento forte. Che colore ha quella sensazione? Blu. Grazie. Ti fa più paura la violenza o la solitudine? La violenza. La Che tipo di violenza e o solitudine? mi fa paura la violenza psicologica, quella che viene fatta attraverso il bullismo o anche con degli sguardi. Sei mai stata violenta? Contro Sì. chi o cosa? Contro me stessa e contro mia sorella. Associa una parola alla parola violenza. Ferita. Associa un oggetto alla parola violenza. C'è Unghia. differenza tra uomini e donne? Vorrei che non ci fosse. Ti senti uomo, donna o altro? Altro. Associa un aggettivo alla parola uomo e uno alla parola donna. Uomo. Baffo. Donna. Divinità. Pensi che sia possibile che tu un giorno ti scopri o diventi esattamente il contrario rispetto alla dicotomia uomo-donna? Ti spaventa? Anzi, ne sono attratta. Cosa ti suscita l'idea di vedere un corpo nudo? Piacere artistico. Se fosse un corpo di donna o se fosse un corpo di uomo sarebbe la stessa cosa. Cosa Sì. o chi ti fa arrabbiare? La violenza. Cosa fai quando sei arrabbiato? Perdo la ragione e urlo. Ma a volte un urlo solo dentro la mia testa e rischia di sfociare in autolesionismo. Associa una sensazione alla parola rabbia. Ti Pesantezza. hai mai paura? Di Sì. cosa? Del giudizio. Cosa fai quando hai paura? Adesso lo affronto. E quando sei felice, cosa fai? Hai Ballo. mai subito violenze o soprusi? Vorrei poter dir di no. Che tipo di violenza? Fisica e psicologica. Quante volte in un mese? Poco. Dove e perché? Scuola, casa. Qual è il primo episodio che ti viene in mente? Mio padre. Con una o poche parole, quale secondo te è il confine della persona? Il confine è la sensazione

Cioè, non manifesto esternamente spesso, magari, però sì, dipende, cioè, è proprio uno stato, è uno stato d'animo. Non so dire qualcosa di specifico che faccio. Hai mai subito violenze o soprusi? Sì, in qualche forma, sì. Niente di eclatante, niente da scriverci un libro, come dire. Qual è il primo episodio che ti viene in mente, se te ne viene in mente uno? Primo episodio. Boh, sì, forse qualche episodio con mio padre. Con una o poche parole, qual è secondo te il confine della persona? Se dovessi identificarlo con una parola. Confine, oddio. Inteso in senso fisico è il corpo, se in altri sensi dipende un po' dalla sensibilità della persona, magari. Cosa ti fa sentire protetto e sicuro? Boh, il fatto di essere in sintonia magari con un'altra persona. E quando senti necessario un abbraccio? Boh, quello spesso, in generale. Grazie. Prima domanda che ti faccio è: che cos'è la violenza per te? È una cosa terribile che ti rimane segnata dentro per tutta la vita. Il suo contrario qual è? Il suo contrario è quasi un sogno impossibile dopo che hai subito la violenza, cioè sperare che ci sia qualcosa di buono oltre quello che hai provato. Può succedere, ma è molto difficile. Perché come dice un vecchio proverbio, quando ti bruci, stai molto attenta al fuoco e non ti fidi più di nessuno. Ti fa paura la violenza? E Molto. la solitudine ti fa paura? Assolutamente, perché non so cosa sia. Tra la violenza e la solitudine, cosa ti fa più paura? La violenza. Ti sembra che ci sia violenza attorno a te? In città? Sì, la respiro, ovunque vado. Lo vedo dallo sguardo delle persone, dalle reazioni quando sono in mezzo al pubblico. E lo capto proprio, e basta una scintilla per farlo scoppiare, come quando succede in un ambiente domestico, che non succede perché è successo quella sera, ma perché è una cosa che andava di lungo da tanto tempo, poi scatta la scintilla. E succede quello che purtroppo leggiamo, sentiamo tutti i giorni praticamente. Ma non è un episodio di quella sera, è un qualcosa di protrarsi, discussioni, risentimenti, gelosie. Ci sono tanti problemi da assemblare, perché ti ho detto, io l'ho provato di prima persona, perciò so cosa vuol dire. Andare a letto la sera col terrore di non svegliarti la mattina, nascondere i coltelli in casa perché hai paura che te lo ficchino nella gola. E uno si chiede perché tu stai lì? Perché ci sono situazioni abbastanza delicate. Tu abiti in una casa che è la tua e del tuo compagno, i tuoi genitori abitano lontano, il lavoro ce l'hai in quella città. Non è che uno può dire adesso vado e vado in albergo. Cioè, non è facile. Perché penso che a nessuna persona piaccia prendere sberle, testate, sbattute contro il muro. Penso. Qualcuno masochista ci sarà anche, ma credo come donna che la violenza è la cosa più terribile che ci sia. A te è mai capitato di agire in modo violento? Per difendermi sì, ma il risultato è stato che dopo ne ho preso il doppio. Quindi parliamo più di violenza fisica. Pensi Certo. che agiscono in modo più violento gli uomini o le donne, se è possibile generalizzare? Allora, l'uomo agisce di violenza a livello fisico, cioè lo senti sulla tua persona. Le donne sono più terribili. È È una violenza più sottile, ti colpiscono nell'animo. E questo è quello che ti fa molto, molto, molto male. Quindi esistono diversi tipi sì, di è più violenza. Sottile, è più sottile, cioè ti colpiscono nelle cose in cui credi, nell'amicizia, perché l'amicizia è sacra, però se viene tradita è una ferita che non si rimargina più, anche quella. Associa un aggettivo a uomo e uno a donna. Non saprei associare un aggettivo a uomo o a donna. In questo momento non mi viene in mente nulla. Ti potrei dire delle cose che non sono vere. Cioè potrei dirti uomo bastardo, però ho conosciuto uomini dolcissimi. E la stessa cosa con le donne. Amiche vere, poche. Poche, anzi, due, e donne amiche così, di viaggio. Non ho aggettivi da descriverti in modo preciso. Pensi sia possibile nell'arco di una vita di una persona che questa persona si scopra o diventa il contrario di uomo o donna? Un uomo che si sente donna o una donna che si sente uomo? Sì, possibile. Ed è possibile nella tua vita? No. Ti spaventerebbe? No. Cosa o chi ti fa arrabbiare? Dunque, il cosa che mi fa arrabbiare sono la falsità al primo posto, perché non sopporto le persone che prendono in giro, che ti parlano dietro, che ti sorridono davanti, ti pugnalano dietro, e siccome fondamentalmente sono una persona in cui credo, in quello che ho davanti, mi sento ancora più ferita. E cosa fai quando sei arrabbiata? Come reagisci? Come reagisco? Mi incavolo da morire, essendo un segno di fuoco Ariete, esplodo per 5 minuti e poi dopo i 5 minuti io sono tornata esattamente come quella che sono. E cosa succede fisicamente nel tuo corpo quando sei arrabbiato? Al respiro, ai muscoli, alla temperatura? La temperatura sale a 97 gradi. Se incontrassi una persona la ucciderei in quel momento, meno male che non c'è, e basta, è tutto quello che mi succede, cioè un vulcano che stappa il tappo, l'eruzione di 10 secondi e poi dopo è finito tutto. E quando sei felice come ti senti, cosa fai? Do tutto il bene del mondo, sono solare, radiosa, generosa, perché credo in quello che faccio, cioè do tutta me stessa a tutti. Ovviamente poi dopo, quando scopro che tanta generosità, diciamo, non equivale, non perché io voglio dare per prendere, però non capisco, diciamo, il ristorno delle persone.